Effetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Ma guardi, se io avessi seguito tutti i consigli del Partito Democratico, forse mi avrebbero messo in cella d'isolamento. Questa è la dichiarazione di Ignazio Marino, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, oggi alla presentazione del suo libro in cui diciamo che non risparmia parecchi veleni nei confronti del PD. In questo caso dice: se avessi ascoltato i loro consigli mi dicevano, dice lui, di sparire negli Stati Uniti, eccetera, sarei a quest'ora in cella d'isolamento. Vedremo che strascichi avrà queste rivelazioni di Ignazio Marino su quello che è stato il suo periodo da sindaco e poi la sua espulsione praticamente da sindaco di Roma. Ma gli argomenti questa sera saranno molti e altri, soprattutto riguardano vicende collocate all'estero, ma con le quali noi siamo saldamente legati come paese, perché ci sono sia di mezzo la Libia, perché sembra che il nuovo governo sostenuto dall'ONU sia arrivato in barca, tra l'altro in nave, insomma, attraverso il mare a Tripoli, e si dovrebbe insediare con la benedizione dell'ONU. Però pare che invece si sentano spari a Tripoli e che l'attuale premier, questo che è arrivato è sostenuto dall'ONU, ma quello che c'era prima a Tripoli abbia sollecitato le milizie a cacciare con tutte le misure possibili quelli che ritiene degli usurpatori. Quindi sembra che insomma questo governo unificato di unità nazionale ancora non prenda il via. Poi ne parleremo diffusamente, così come parleremo di due vicende che riguardano due grossi contenziosi dell'Italia con paesi esteri, anche se hanno una natura completamente diversa: la vicenda dei Marò da una parte e quella del caso di Giulio Regeni dall'altra, con varie difficoltà, insomma, lo sapete, sia con l'Egitto sia con l'India. Poi ci saranno anche presenti, dovremo raggiungere tra poco, i due avvocati uno di Alessandro Boccia e l'altro del ragazzo che è stato sfregiato, Stefano Savi, perché è arrivata una nuova sentenza per l'uomo, diciamo, della coppia, come viene definita, diabolica, della coppia dell'acido, Alessandro Boccia. C'era stata una prima sentenza a 14 anni, adesso è arrivata oggi anche la sentenza di 23 anni di condanna. Avremo modo, insomma, di parlare di tutte queste cose. Intanto però vi chiedo, ritornata tra voi per aggiornarvi ogni giorno con un quadro esauriente delle notizie della giornata e anche con gli approfondimenti con gli ospiti, vi sottopongo questo argomento. Il ministro dell'economia Padoan oggi, a proposito dell'Europa, ha detto: l'Europa è deludente e questa è una tragedia, dice Padoan, perché dovrebbe essere vista come un'opportunità, invece per la maggior parte della gente, degli italiani, è vista come un problema. Allora vi chiedo, perché secondo voi l'Unione Europea, l'Europa, è così impopolare oggi? Tra l'altro questo è un quesito che c'è anche sul sito di Radio 24, quindi voi poi, quando finisce Effetto Notte, andate tranquillamente a votare sul sito di Radio 24. Prima però, qui in diretta, vorrei le vostre opinioni sulla pagina Facebook di Effetto Notte, che è sempre lì per voi giorno e notte, e anche attraverso gli sms al 349-238-6666, 349-238-6666, o pagina Facebook di Effetto Notte, per rispondere perché secondo voi l'Europa in questo momento è così impopolare. Adesso però partirei con la sintesi della giornata. La vicenda dei Marò: l'India giudica inammissibile la richiesta di far tornare Gironi in Italia, e sul caso dei due fucilieri, vertice europeo e udienza al Tribunale dell'Aia. Il governo del designato primo ministro Serraj arriva nella capitale libica via mare, ma il premier di Tripoli fa appello alle milizie per cacciarlo. L'omicidio di Giulio Regeni: rientra il team di investigatori italiani in attesa dell'incontro del 5 aprile con gli inquirenti egiziani. Renzi assicura: ci fermeremo solo davanti alla verità. Le aggressioni con l'acido, nuova condanna per Boccia, 23 anni di reclusione. Il ragazzo sfregiato dice: spero che non esca più. Il ministro Padoan sull'Europa: delude i cittadini e questa è una tragedia, dice. Telecom: Flavio Cattaneo è il nuovo amministratore delegato. Lutto nel mondo della musica, addio al cantautore Gian Maria Testa. Partiamo quindi dalla vicenda dei Marò. L'India giudica inammissibile la richiesta da parte dell'Italia di far tornare Girone nel nostro paese, e sul caso dei due fucilieri oggi c'è stato un vertice europeo a Bruxelles e si è aperta l'udienza al Tribunale Internazionale dell'Aia per decidere chi tra Italia e India abbia la giurisdizione per giudicare, per decidere della sorte dei due fucilieri. Tra l'altro, in un comunicato in una nota di conclusione del vertice europeo, che poi approfondiremo però dopo, l'Unione Europea si legge: condivide le preoccupazioni dell'Italia per una una rapida soluzione della prolungata restrizione della libertà per i due marò e l'India sottolinea la necessità che sia resa la dovuta giustizia alle famiglie dei pescatori italo-indiani uccisi. Quindi capiremo più nel dettaglio più tardi qui effetto notte. Passiamo alla Libia. Il ministro degli esteri Paolo Gentiloni ha accolto con soddisfazione oggi l'arrivo a Tripoli del Consiglio di Presidenza libico sostenuto dall'ONU. Dice un altro passo avanti per la stabilizzazione della Libia. Così ha detto Gentiloni. I membri del nuovo governo di unità nazionale, compreso il primo ministro Serraj, questa è la cosa particolare, sono arrivati a Tripoli via mare. Ma al di là della soddisfazione internazionale, vi dicevo, le tensioni restano con il premier di Tripoli che esorta le milizie a cacciare gli usurpatori. Anche su questo argomento torneremo più tardi. Siamo alla visita di Renzi negli Stati Uniti e il caso Regeni. Investite, questo è il momento giusto per farlo, anche perché al momento l'idea è quella di non rinnovare il superammortamento nel 2017. Parla così Matteo Renzi davanti agli imprenditori delle macchine utensili a Chicago, tappa intermedia del suo viaggio negli Stati Uniti. E proprio da Chicago Renzi è tornato sul caso di Giulio Regeni. Ci fermeremo solo davanti alla verità, e la verità vera, non una verità di comodo. Lo dobbiamo alla famiglia Regeni, noi lo dobbiamo al popolo egiziano e al popolo italiano, per cui il massimo sforzo da parte delle autorità italiane perché i magistrati italiani possano avere pieno accesso a tutte le carte. Come vi dicevo, poi torniamo anche sul caso Regeni, sugli sviluppi. Intanto, come vi sollecitavo a rispondere all'inizio su questa questione dell'Europa così dileggiata e che anche Padoan definisce deludente, il ministro Padoan oggi a Parigi, il ministro dell'economia, appunto, ha attaccato l'Europa e ha detto: è così deludente. Interviene a Parigi il ministro dell'economia ed affronta il delicato tema dei rapporti con le istituzioni di Bruxelles. L'Europa è deludente e questa è una tragedia, dice Padoan, perché dovrebbe essere vista come un'opportunità e una parte della soluzione, mentre oggi, spiega Padoan, l'opinione di molti è che sia una parte del problema. Siamo circondati dall'incertezza, aggiunge il titolare del Tesoro, che elenca quindi le fragilità del vecchio continente: crescita debole, disoccupazione ancora molto alta, il rischio deflazione, oltre ad una fragilità sistemica. Da qui la necessità che la politica ritrovi il suo ruolo e sia di guida. Quindi il tema della flessibilità non è una scusa per l'indisciplina di bilancio, spiega Padoan, ma un sistema di incentivi per riforme strutturali e investimento pubblico e privato. Occorre allora trovare un giusto mix, fa capire il ministro, tra la disciplina sui conti, cruciale per l'Italia, e la creazione di opportunità per la crescita. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Siamo adesso sulla cronaca italiana con la vicenda delle aggressioni con l'acido, della cosiddetta coppia dell'acido, coppia diabolica, quella formata da Martina Levato ed Alessandro Böcher. Dopo la prima condanna a 14 anni, in serata è arrivata la nuova sentenza contro il broker, contro Böcher, condannato a 23 anni di reclusione. Questa è la pena decisa dai giudici della 11ª sezione penale del Tribunale di Milano. All'ex amante Martina Levato, vi ricordo, sono stati inflitti 14 e 16 anni nei due processi sui blitz con l'acido. Alessandro Böcher è a processo con l'accusa di aver sfregiato con l'acido lo studente Stefano Savi il 2 novembre 2014 e di aver tentato poi di colpire allo stesso modo due settimane dopo il fotografo Giuliano Carparelli. Ne parliamo con Michele Andreano, legale di Alessandro Böcher, che saluto e ringrazio per la disponibilità. Buonasera avvocato Andreano. Sì, buonasera, buonasera. Vi aspettavate questa condanna? Francamente no, questo per essere sinceri fino in fondo, però diciamo che sicuramente il clima non ha aiutato, la sovrapposizione mediatica ha certamente creato un problema abbastanza serio. Mi pare che voi, lei in primis, ma comunque i legali di Böcher, abbiano detto che lui è solo uno sciocco disturbato, ho letto bene questa dichiarazione? Questo sì, però tenga presente che c'è un problema molto più profondo rispetto a una frase così estrapolata. È certamente una persona che ha dei problemi di natura personale, sessuale, è quasi ossessionato dal sesso, ma questo non c'entra nulla con i reati che gli hanno contestato. E quindi quale sarà poi la vostra linea a questo punto? Lui ha detto una sentenza già scritta, lotterò, mi difenderò. Cosa avete intenzione di fare adesso? Faremo appello, noi aspettiamo le motivazioni, vediamo quali sono le ragioni per cui in diritto ritengano che lui sia responsabile di questi fatti gravissimi, e poi sicuramente faremo appello. Quindi prima di 90 giorni non leggeremo le motivazioni, ne parliamo appena andremo a leggere. Senta, qual è il principale elemento della vostra linea difensiva, se mi può sintetizzare? Non era mai presente lì, i tabulati ce lo dicono i dati anche del telefono, L'unica volta, però questo è il caso Barbieri, che è un altro episodio, lui non è andato lì né travisato, con la propria macchina, con le proprie targhe, per cui lui non ha mai neanche minimamente saputo di questi attentati e certamente nessuno l'ha mai visto lanciare l'acido. Le faccio un'ultimissima domanda, avvocato Andreano. Che reazione ha avuto il suo assistito Böttcher alla sentenza? Sì. Scusi, non ho capito, non abbia pazienza. Prego, che reazione ha avuto il suo assistito Böttcher alla sentenza? Gliela riassumo proprio in due parole. Mi ha detto 2 ore di camera di consiglio, cosa ti aspettavi? Avvocato Michele Andreano, la ringrazio e buon grazie lavoro. Grazie a voi, grazie mille, buonasera. Grazie, buonasera. E c'è Andrea Orabona, che invece è avvocato di Stefano Savi, il ragazzo che è stato gravemente sfregiato. Buonasera, avvocato Orabona. Buonasera. Quindi ha sentito l'avvocato Andreano, la vostra reazione naturalmente è stata diversa. La reazione è ovviamente antitetica. Stefano Savi ha colto con grande soddisfazione la pronuncia equa, equilibrata del tribunale, il riconoscimento di una provvisionale immediatamente esecutiva per 1.200.000 euro, ivi compresi i familiari, qui è stata riconosciuta una provvisionale di 60.000 euro per ciascun genitore e il fratello, quindi sicuramente accolta con grande attesa e grande soddisfazione. Anche se sa, avvocato, come si diceva, avvocato Orabona, che non è finita qui, no? Se poi ci sarà l'appello. Certamente. Devo dire che attendiamo l'appello dei difensori, perché le sentenze sono impugnabili e appellabili ed eventualmente ricorso per Cassazione, ma da un punto di vista probatorio, a mio parere, già questa sentenza, leggeremo le motivazioni, porrà una pietra miliare sulla responsabilità del Böttcher che verrà riconosciuta in concorso con Martina Levato e Andrea Magnani, che hanno già subito una condanna, come sappiamo, per gli stessi fatti. Quindi certamente è un primo momento, ma molto importante da un punto di vista giudiziario. Ecco. Avvocato Orabona, invece, per chiudere, il suo assistito, sì, Stefano Savi, come ha reagito? Ma guardi, sempre con grande equilibrio, ovviamente si volta pagina dovrà ancora affrontare interventi chirurgici di carattere estetico, ma anche agli occhi di altro tipo, anche ad alcuni organi, perché esempio ricordo sono l'orecchio, ma certamente senza alcun tipo di rancore nei confronti del Böttcher, con grosso equilibrio ha preso atto della sentenza e mi ha detto a caldo: giustizia è fatta, sono contento per la decisione del tribunale. Se così è, significa che anche il Böttcher è responsabile, a questo punto possiamo dire, visto che è stato condannato anche per associazione per delinquere, ideatore e promotore di questa banda dell'acido. Ecco, questa è stata un po' la risposta a caldo che mi ha dato oggi. Grazie, avvocato Andrea Orabona. Grazie a lei. Grazie, buona continuazione. Buona serata. E adesso siamo alla politica, con la presentazione, dicevo all'inizio, del libro di Marino e i suoi attacchi al PD. Ignazio Marino preferisce per ora non sciogliere la riserva su una sua possibile ricandidatura. Presentando il suo libro, l'ex sindaco di Roma non risparmia invece un duro attacco a Matteo Renzi e al Partito Democratico. Se avessi seguito i consigli del PD sarei in cella, si sfoga Marino, secondo il quale l'Italia è l'unico paese europeo nel quale un premier che non è stato eletto direttamente indica un commissario straordinario al posto di un sindaco votato invece da centinaia di migliaia di cittadini. Credo che questo sia sia una lesione della democrazia che è stata considerata con molta attenzione e con molta preoccupazione dalle cancellerie di tutti i paesi stranieri. Se a Roma Marino non scioglie la riserva, a Milano è attesa invece a breve l'ufficializzazione della candidatura di Basilio Rizzo. Sostenuto da Rifondazione, Civatiani, Pezzi di Sella e Movimenti, il presidente del Consiglio Comunale sarà l'alternativa a sinistra di Beppe Sala. Dopo le polemiche, nel frattempo, il ministro dell'Interno Alfano oggi fa sapere che per il voto amministrativo proporrà a Renzi la data del 5 giugno. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Occupiamoci di Telecom adesso, perché un nuovo amministratore delegato è Flavio Cattaneo, lo ha deciso il CDA oggi. Cattaneo è amministratore di Italo, prende così il posto di Marco Patuano, che aveva formalizzato le dimissioni lunedì 21 marzo. Al mercato di Porta Palazzo fanno la fila, fanno la fila. Le femmine da è morto ragazzi. Il cantautore, lo sentite, il piemontese Gianmaria Testa, aveva 57 anni, era stato lui stesso lo scorso anno a annunciare che era malato, che aveva un tumore, e la notizia è apparsa anche sulla sua pagina Facebook. Tantissimi fan che stanno esprimendo il loro cordoglio, ricordando la sua attenzione per gli ultimi, dai migranti ai poveri. Fanno la coda sul cemento e si lasciano perquisire sotto le. E con questa notizia adesso ci aggiorniamo tra poco per capire se ci sono delle novità su strade e autostrade. Volevo dare un'occhiata però velocemente ai vostri messaggi a proposito di questa dichiarazione del ministro Padoan dell'economia, che ha detto l'Europa è deludente, questa è una tragedia, doveva essere una grande occasione, invece la gran parte insomma delle popolazioni europee, in particolare l'Italia, la vede un po' di malocchio. Che ne pensate? 349-238-6666 per i vostri messaggi, perché secondo voi l'Europa oggi è così impopolare, oppure scrivete la vostra opinione sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Qualcuno scrive al 349-238-6666, aspettative andate deluse. Poi Roberto da Magenta scrive: semplicemente perché all'Europa unita socialmente, culturalmente e politicamente si è creata un'Europa vorace di soldi e finanza, una sorta di Big Wall Street europea. E poi invece qualcun altro scrive: percepita un problema per due motivi, impone rigore, e poi si deve essere perso per strada l'altro motivo, magari poi lo rintraccio tra una cosa e l'altra. Giovanni dice: perché l'Europa è impopolare? Domanda retorica, lo sfacelo è sotto gli occhi di tutti. Giovanni, continuiamo a parlare dopo, e poi adesso dopo la pausa per le viabilità cominciamo a entrare nel cuore degli argomenti con gli ospiti. Vi ricordo pagina Facebook di Effetto Notte, 349-238-6666 per spiegare perché secondo voi l'Europa oggi è così impopolare. Poi, una volta finito Effetto Notte alle 22, potete anche votare sul sito di Radio 24. Tra poco. Index protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci insieme, sempre Roberto Giordano con voi. Cominciamo adesso ad approfondire i vari temi dopo questo riassunto della giornata, come sempre, e un occhio ancora ai vostri messaggi. La domanda che vi ho posto questa sera: perché, come dice, come ha detto oggi il ministro dell'economia Padoan, l'Europa è deludente, è impopolare secondo voi? 349-238-6666, che è il numero per gli sms e per i messaggi. Andrea da Bologna scrive: l'Europa è impopolare perché è il capro espiatorio dell'incapacità dei politici nostrani. Padoan e Renzi hanno sprecato le risorse e il debito è aumentato. Qualcuno già scrive su Regeni, ma ne parleremo dopo. Brunello scrive: Padoan e il suo capo sono deludenti, non l'Europa. Quindi qualcuno non getta la propria delusione sopra l'Europa, sopra le istituzioni, ma sopra evidentemente i governanti. Continuate con le vostre riflessioni. Adesso vi ricordo quali sono le notizie più importanti della giornata. Il governo Sarraj, quello in Libia sostenuto dall'ONU, è a Tripoli, però è alta la tensione nel paese. Appello alle milizie dal premier di Tripoli, che dice: si consegni Sarraj o lasci il paese. Quindi situazione di grande tensione. Il caso Regeni: in Egitto un pool di procure, le autorità egiziane hanno annunciato che ci sarà questo pool di procure. Renzi incalza: i magistrati italiani abbiano accesso a tutte le carte. La vicenda di Marò, l'Italia all'AIA, che deve decidere il Tribunale dell'AIA chi ha giurisdizione per giudicare i due Marò. Intanto l'India respinge ancora una volta, dice che è inammissibile la richiesta di far tornare Girone in Italia. Aggressioni con l'acido, abbiamo appena parlato con gli avvocati di Böcher e l'avvocato dello studente sfregiato Stefano Savi. Aggressioni con l'acido, Böcher condannato a 23 anni, Savi in aula dice: se l'è cercata, spero che non esca mai più. Petrolio giù e quindi bollette di luce e gas meno care da aprile. Flavio Cattaneo è il nuovo amministratore delegato di Telecom. E intanto l'Unione Europea sulla questione terrorismo valuta controlli maggiori negli aeroporti in stile Israele, stile Tel Aviv. Marino, Ignazio Marino attacca il PD, se era per loro finivo in galera. Quindi la vicenda infinita dei due Marò, ne parliamo adesso, le posizioni di Italia e India restano sempre distanti. Oggi al Tribunale Arbitrale Internazionale dell'AIA è iniziata questa due giorni di udienze sul caso che si è aperta la prima udienza di oggi con la richiesta presentata dall'ambasciatore Francesco Azzarello di far rientrare in Italia Salvatore Girone, perché dice non può restare in India fino alla fine del procedimento a suo carico, che potrebbe durare almeno 3 o 4 anni. La posizione dell'India però anche oggi resta purtroppo chiara, dice la richiesta dell'Italia è inammissibile. E dall'India l'agente per il governo indiano Nehru Chad ha detto, prendendo la parola all'udienza del Tribunale Arbitrale dell'AIA, ha detto: è vero che la Corte Speciale Indiana non ha avviato il processo nei confronti dei Marò, ma non per negligenza o leggerezza da parte indiana, bensì per le azioni di ostruzionismo dell'Italia. Ne parliamo con l'ambasciatore Antonio Armellini, che saluto. Buonasera, ambasciatore. Diplomatico e ambasciatore per diversi anni in India. Vediamo se ci sentiamo, ambasciatore. Sì, se le riesce a sentirmi. Sì, la sento un po' male, forse si deve spostare rispetto a dov'è, non so, col cellulare ogni tanto ci sono questi problemi. Funziona meglio così? Meglio, sì. Va bene, meglio. Va bene. Allora, ambasciatore, lei con la sua lunga esperienza nel suo campo e anche in India, come la vede a questo punto la vicenda? C'era un documento di prima conclusione dell'Unione Europea, oggi c'è stato questo vertice bilaterale, ne parleremo tra poco. Intanto il Tribunale dell'AIA sta tenendo queste udienze, e l'India è inamovibile. A che punto siamo? Ma io credo che se in qualsiasi controversia le parti si dichiarassero d'accordo all'inizio del procedimento non ci sarebbe bisogno di arbitrati, quindi che in questa fase le posizioni siano distanti e separate mi pare tutto sommato normale, così come mi pare normale che l'India abbia respinto questa richiesta italiana, cosa che peraltro aveva già fatto in precedenza. Richiesta, bisogna ricordarlo bene, fra l'altro per una cosiddetta misura provvisoria, cioè che in realtà non tocca la sostanza del procedimento arbitrale, ma serve semplicemente, come dire, a facilitarne lo svolgimento. Mi pare molto presto per trarre delle conclusioni. Nei giorni scorsi c'era molto ottimismo, oggi nei commenti invece sembra essere stato un grande pessimismo. I processi con gli altri arbitrati non si fanno sui titoli di giornale, si fanno sui tempi lunghi, in realtà, quindi anche su questo forse è bene guardare alle cose con un attimo così di distacco. A me ha colpito, non so quanto valga, ma mi hanno colpito non tanto le motivazioni dei documenti indiani che erano noti, quanto questo punto sulle condizioni, che è sì un fatto mi sembra abbastanza nuovo, e non a caso infatti uno dei legali della parte italiana, Daniel Bethlehem, lo ha subito colto per dire: questo può essere un modo per andare avanti. Se così fosse, allora quelle aperture di cui si parlava nei giorni scorsi, naturalmente alla fine di un procedimento che è dialettico, che è contraddittorio, come lo sono tutti, forse potrebbero anche esserci, ma dico è molto presto per capire. Quindi, ambasciatore Armellini, la vicenda continua ad andare avanti, continuerà ad esserci questo braccio di ferro. Entro due giorni il Tribunale dell'AIA dovrebbe decidere quindi chi tra Italia e India ha il diritto di decidere la sorte dei due fucilieri? No, il Tribunale Arbitrale dovrà decidere qual è la giurisdizione, ma non entro due giorni, entro 3 anni. Entro 3 anni, quindi questa è una prima consultazione, quindi qui andiamo avanti veramente. So. Allora, guardi, l'arbitrato prima del 2018, che non sia mai noto a tutti, non si concluderà nella sostanza. Adesso stiamo parlando in questi giorni, in questo giorno si è parlato, come dicevo, di una cosiddetta misura provvisoria, cioè nelle more dell'arbitrato, noi abbiamo detto consentiamo a uno dei due coinvolti nell'arbitrato, nei soggetti, diciamo, oggetti dell'arbitrato, di aspettare la fine della procedura, non in India ma altrove. Sono due cose diverse. Anche questa cosa non verrà decisa in due giorni, credo che ci vorrà qualche settimana perché il tribunale decida se accogliere la richiesta italiana di una misura provvisoria, così si chiama, che permetta a Gironi di rientrare in Italia e alla Torre di non tornare in India, le due cose sono collegate, già, oppure no. E questo è quello di cui si è parlato oggi, su questo c'è stato lo scambio delle posizioni, la richiesta italiana e la risposta indiana negativa, come battuta d'apertura, mi pare normale che sia così. Bisogna vedere quali sono gli sviluppi successivi ed è per quello che le dicevo prima che a me è sembrato interessante, ma non sono in grado di dare una valutazione sicura. Questa annotazione fatta sia dalla parte indiana che dalla parte italiana al tema delle condizioni, cioè delle condizioni a cui eventualmente assoggettare la misura provvisoria che permetterebbe a Gironi di tornare in Italia alla Torre di restarci. E queste condizioni? Questo è il quadro di sì. oggi. Questo è il quadro di oggi, quindi diciamo ci sarà ancora da aspettare, capiremo poi appunto sia dalle conclusioni del Vertice Unione Europea sia dal Tribunale dell'Aia quali saranno i prossimi sviluppi. Insomma si naviga un po' a vista, mi sembra di capire, da tempo, ambasciatore Ermellini. Si naviga certamente in maniera, forse si poteva navigare in maniera diversa. Adesso abbiamo, come dire, io non confonderei neanche il Vertice India-UE con la procedura arbitrale, uno è un procedimento di tipo giurisdizionale, ma... Sul vertice India-UE certamente il vertice si è espresso in favore dei nostri due marò, non so se poi Modi alla fine ci è andato o meno alla conferenza stampa, insomma, ma io personalmente non farei un grandissimo affidamento su questo aspetto del rapporto. È soltanto fra un'iniziativa diplomatica, ma poi nel concreto lei dice insomma. No, ma perché in realtà, come dire, certamente l'India è un interlocutore, diciamo così, che forse l'India è più importante per l'UE di l'Unione Europea di quanto l'Unione Europea lo sia per l'India, perlomeno nella percezione dei due. Quindi noi pensiamo, come dire, che l'arma dell'Unione Europea possa essere molto forte per convincere gli indiani a essere più malleabili. Io credo che questo non sia necessariamente vero, fino adesso non lo è stato, perché la percezione indiana dell'Unione Europea è molto diversa e tra l'altro l'India, che ama ragionare in politica estera sul piano bilaterale dei rapporti di forza, in realtà capisce meno perché noi, come dire, ci trinceriamo o chiediamo un intervento collettivo dell'Unione Europea a nostro favore piuttosto che difenderci con forza come nazione, cosa che gli indiani forse capirebbero meglio. Posso sbagliarmi, ma insomma mi stupirei molto. Ambasciatore Ermellini, le faccio proprio un'ultimissima domanda, al di là di tanti, diciamo, errori, mancanza di strategia che da più parti si dice l'Italia abbia avuto sinora in questa vicenda. In questo momento, secondo lei, delle mosse che il nostro paese potrebbe fare è solo di aspettare o? Guardi, io credo che il nostro paese deve, da un lato, sostenere con forza i nostri argomenti giuridici, che ci sono e sono validi. Dall'altro non deve dimenticare mai che secondo me questa vicenda alla fine non verrà decisa dai giudici ma dalla politica ed è importante che ci siano dei canali di contatto a livello politico, a livello molto alto, secondo me questa cosa potrà essere decisa e vorrà essere decisa da Modi in persona e l'interlocutore di Modi dovrà essere Renzi. La politica potrebbe essere quella che chiude questa vicenda. Grazie ambasciatore Ermellini, grazie buona continuazione. Arrivederci, buonasera. Europa 24 notte. Si diceva prima, quindi anche nello spazio europeo parliamo dei marò, la questione dei due fucilieri italiani è stata sul tavolo del vertice odierno appunto tra Unione Europea e India a Bruxelles. C'è la nostra Livia Zancaneri che ci aggiorna su questo. Livia, poi di concreto, a parte questo comunicato che dice che l'Unione Europea capisce le preoccupazioni dell'Italia in merito a questa vicenda, che altro? Allora, buonasera Roberta. Alla fine la conferenza stampa, come diceva l'ambasciatore prima, non c'è stata e pare che il premier indiano appunto non l'abbia voluta anche per non dover magari rispondere a qualche domanda proprio sui marò italiani. Di quello che si sa, allora, dall'incontro ristretto tra Presidente del Consiglio Europeo Tusk, della Commissione Europea Juncker e il premier indiano Modi, si sa che sarebbero emersi dei segnali di disgelo, nel senso che Modi avrebbe mostrato un atteggiamento costruttivo, anche se appunto non ha voluto fare l'incontro con la stampa. Il leader indiano, ricordiamo, vorrebbe un accordo di libero scambio con il vecchio continente, ma ovviamente sa che il caso Marò potrebbe avere sviluppi sulle relazioni con l'Europa. Nelle conclusioni del vertice, ma questo l'hai già anticipato tu, vi sono due cose. Allora, da una parte l'Europa condivide la preoccupazione dell'Italia proprio sul caso dei due Marò, dall'altra l'India sottolinea di nuovo la necessità che sia resa la dovuta giustizia alle famiglie dei pescatori indiani uccisi in quel famoso febbraio del 2012. E poi si legge ancora che Unione Europea e India hanno espresso la loro fiducia nella procedura di arbitrato. Ricordiamo anche che proprio il tema di Due Marò portò un anno fa al rinvio di questo summit Europa-India. E, come dicevate prima, c'è stato poi oggi la prima giornata dell'udienza davanti al Tribunale Internazionale dell'AIA. Sì. Nelle prossime settimane, diceva l'ambasciatore, il Tribunale dovrà decidere se accogliere le richieste italiane. Quindi l'Italia chiede che Salvatore Girone possa rientrare in patria finché il procedimento arbitrale non si sarà concluso, anche perché appunto questo procedimento arbitrale potrebbe durare 3-4 anni e il fuciliere, ricordiamo, è bloccato a Delhi senza alcun capo di imputazione formale dal 2012, mentre la Torre è in Italia per motivi di salute dopo essere stato colpito da un ictus ad agosto 2014. Le ultime notizie parlano di un'udienza il 13 aprile proprio sul caso La Torre, cioè se potrà rimanere probabilmente in Italia o dovrà tornare a Delhi. Dicevate, il governo indiano ritiene inammissibile la richiesta italiana perché teme che una volta rientrato Girone non ritorni più in India, e oggi la rappresentante indiana Chadha ha spiegato in udienza che la Corte Speciale Indiana non ha avviato il processo nei confronti di Due Marò non per negligenza o per lentezza o per leggerezza, ma proprio per le azioni di ostruzionismo dell'Italia, che ora quindi non può più lamentarsi delle conseguenze della propria condotta. E in più, ha ricordato l'avvocato quindi indiano, l'Italia già ad agosto dello scorso anno aveva chiesto il rientro di Girone al Tribunale del Mare di Amburgo, ma il Tribunale di Amburgo aveva respinto questa richiesta, quindi vedremo cosa farà il Tribunale dell'AIA. E ci sembra, insomma, che ci sia ancora diverso tempo da aspettare. Grazie Livia Zancaner. Ciao, a Livia. Te, buonasera. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. Prima di darci questa pausa di ricreazione, voglio dare un'occhiata anche alla pagina Facebook di Effettonote con i vostri messaggi a proposito di quello che ha detto oggi il ministro Padoan. Ha detto: l'Europa è deludente, questa è una tragedia perché dovrebbe essere vista come un'opportunità, invece l'opinione di molti è che sia una parte del problema. Perché secondo voi è così impopolare l'Europa? Cristiano scrive: perché l'organismo slabbrato, informe e tenuto in piedi solo dall'ipocrisia di una moneta falsa. Berlino e Atene non potranno mai avere lo stesso passo e ogni sovranità interna è inconsistente se controlli e pagelle dei forti vanno ogni volta ad ammonire i deboli. Ilaria scrive: un mostrum burocratico che sforna norme, legge e leggine in continuazione, come se noi non ne avessimo abbastanza di nostre. Poi quale unità? Ci continuiamo a sbranare in nome dei rispettivi interessi nazionali. Antonella, sempre sulla pagina Facebook di Effetto Notte: anch'io sono d'accordo con Cristiano, l'Europa non è unita, forse anche più divisa di prima, ma impone regole molto pesanti ed alcuni paesi come il nostro, dove si vive male e con troppe ingiustizie. Ancora molti messaggi tra la pagina Facebook di Effetto Notte, poi al 349-238-6666, che è il numero per i messaggi, ma ci sentiamo tra poco. Tutti i giorni alle 9, Mix 24, con i faccia a faccia, le inchieste, i gialli della storia di Giovanni Minoli, dentro la notizia di Mario Secchi, Salamini di Pietrangelo Buttafuoco, la storia e la musica di Alessandra Fiori e Franco Schifani e tante novità per l'unico programma di Radiovisione. Ascoltaci anche in digital radio. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte siete al posto giusto nel momento giusto con la giusta conduttrice Roberta Giordano, sempre con voi. Abbiamo parlato del caso dei Marò, un caso infinito. C'è un altro caso che purtroppo così si prospetta, anche se di natura completamente diversa, il caso Regeni, di cui parleremo tra pochissimo. Intanto volevo leggere, prima di ricordarvi le notizie più importanti della giornata, visto che c'è stata una pausa, quali sono, volevo leggere cioè i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte, è al 349-238-6666. A proposito della dichiarazione piuttosto forte che ha fatto oggi Padoan attaccando l'Europa e dicendo l'Europa è deludente, per questo che insomma è piuttosto impopolare, doveva essere un'occasione una grande risorsa, invece tra la gran parte delle persone, dei cittadini europei, rappresenta un problema. Perché secondo voi è impopolare l'Europa oggi? Vi ricordo che potete poi alla fine della trasmissione votare anche sul sito di Radio 24, ma intanto votate in diretta sulla pagina Facebook di Effetto Notte o al 349 238 6666, dove ha scritto per esempio Mauro da Torino, che dice buonasera, l'Europa è deludente perché avrebbero dovuto fare l'Europa dei popoli, non quella delle banche. I risultati sono sotto gli occhi di tutti, il governo Renzi ha fatto il resto. Poi un altro messaggio: l'Europa è impopolare perché impone misure sulle nostre telline, che sono dei molluschi per chi non lo sapesse, ma non riesce nemmeno a proteggere le frontiere. Quanto a Renzi, le sue chiacchiere hanno deluso anche i più pazienti in Europa. Roberto da Milano: l'Europa è impopolare al netto dei suoi errori perché in Italia è sempre colpa di qualcun altro, e chi su questo ci marcia raccoglie consensi di un popolo irresponsabile. Allora, ritorniamo sulle notizie più importanti della giornata e poi riprendiamo con l'approfondimento degli argomenti. La vicenda di Marò: l'India giudica inammissibile la richiesta di far tornare Girone in Italia, e sul caso dei due fucilieri, vertice europeo oggi e udienza di due giorni al tribunale dell'Aia. Libia: il governo del designato primo ministro Serraj arriva dalla capitale, nella capitale via mare, ma il premier di Tripoli fa appello alle milizie per cacciarlo. L'omicidio di Giulio Regeni: rientra il team degli investigatori italiani in attesa dell'incontro del 5 aprile con gli inquirenti egiziani. Renzi rassicura: ci fermeremo solo davanti alla verità. Le aggressioni con l'acido: nuova condanna per Böttcher. Abbiamo avuto qui il suo avvocato, 23 anni di reclusione, e Stefano Savi, il giovane sfregiato. Era qui Effetto Notte anche il suo avvocato, dice: spero che non esca più. Il ministro Padoan sull'Europa delude i cittadini, dice: questa è una tragedia. Telecom: Flavio Cattaneo è il nuovo amministratore delegato. E poi lutto nel mondo della musica: addio il cantautore Gian Maria Testa, aveva 57 anni. Io penso che di quel viso, che era così bello, aperto, solare, ho un'immagine di lui, di un viso che era diventato piccolo, piccolo, piccolo, che io e Claudio abbiamo baciato e accarezzato. E non vi dico che cosa non hanno fatto a quel viso. Io su quel viso ho anche visto, oltre che il male, che in quel momento ho detto: qua tutto il male del mondo si è riversato su lui. Perché? Perché si è riversato su lui? E quindi su quel viso, che era diventato piccolo, piccolo, colori che non vi dico, forse l'unica cosa che ho veramente ritrovato di lui, ma l'unica, è stata la punta del suo naso. Terribile questa testimonianza della madre di Giulio Regeni, Paola Defendi, che ieri insieme al marito Claudio ha parlato in Senato in una conferenza stampa. Hanno per l'ennesima volta rivendicato i genitori di Giulio il loro diritto, il diritto anche dell'Italia, del governo italiano, di sapere finalmente la verità sull'orribile fine del figlio Giulio Regeni, il ricercatore friulano, vi ricordo, di 28 anni, che è stato trovato morto lo scorso 3 febbraio al Cairo, in Egitto, dopo essere scomparso il 25 gennaio, con evidenti segni di terribili torture. Dopo due mesi, più di due mesi dal ritrovamento del cadavere, manca ancora da parte delle autorità egiziane una versione davvero credibile che possa essere condivisa anche dalle autorità italiane. Dalle autorità egiziane, in realtà, ne abbiamo parlato spesso, no? Sono arrivate, c'è stato tutto un susseguirsi di versioni, tra le più fantasiose, le più inattendibili e anche le più offensive possibili. Ieri, quindi, vi dicevo, i genitori di Giulio hanno tenuto questa conferenza stampa in Senato. Il padre Claudio ha ripercorso un po' la sua storia, da quando aveva 12 anni, il figlio era diventato sindaco dei giovani del paesino friuliano di Fiumicello, fino poi al suo arrivo in Egitto. Giulio stava passando un periodo molto felice della sua vita, sia dal punto di vista personale che del lavoro, ha detto il padre Claudio. Questo per ricordare, ha sottolineato la madre, che insomma era un ragazzo come tanti, era andato in Egitto solo per fare ricerca. La conferenza è stata convocata dal senatore Luigi Manconi, presidente della Commissione per i diritti umani, e sono intervenuti anche in questa conferenza l'avvocata della famiglia Regeni e il portavoce di Amnesty International Italia, Riccardo Nuri, che è qui in collegamento Effetto Notte. Buonasera Nuri. Buonasera. Allora, oggi si è appreso tra l'altro che si è conclusa la missione del team investigativo italiano, inviato al Cairo dalla Procura di Roma per partecipare alle indagini. Sono tornati in attesa di questo incontro nella capitale del 5 aprile prossimo, no? Tra le forze di polizia di Roma e quelle del Cairo. Però, insomma, pare che i genitori non si aspettino moltissimo, forse anche noi, insomma, da questo incontro del 5 aprile. Che dice Nuri? Sì, ma intanto che dei genitori debbano chiedere, pretendere, aggiungere dolore al dolore, genitori colpiti da un lutto come questo dovrebbero soltanto ricevere delle risposte, e io spero che queste risposte le abbiano. Non so se il senso con cui stiamo caricando questa data del 5 aprile, come se fosse quella in cui si arriverà a quella verità che tutti quanti chiediamo, sia eccessivo. Sarà un incontro nel quale le forze di polizia egiziane dovranno consegnare ai colleghi italiani una serie di materiali, tabulati, immagini. Speriamo che ci sia tutto e che si possa fare un passo avanti. Dopodiché però, fino a quando, come lei ha ricordato giustamente, da parte egiziana l'unico tentativo che viene fatto è quello di scagionare da ogni responsabilità le forze di sicurezza del paese, io credo che non facciamo dei passi avanti, e li faremo solo quando collocheremo l'omicidio di Giulio Regeni in un contesto che è quello di negazione dei diritti umani che si sta verificando in quel paese. Riccardo Nuri, Renzi oggi ha detto: ci fermeremo solo di fronte alla verità vera, dice non vogliamo nessun tentennamento, nessuna verità di comodo. Gentiloni ha detto basta piste offensive ne trarremo le conseguenze. Rispetto a queste, diciamo così, come possiamo definirle, anche minacce, no, da parte delle autorità italiane, mi pare che finora non abbiano scaturito grandi risultati, però si era pensato a una prima ipotesi del ritiro dell'ambasciatore italiano in Egitto, ma da più parti si è detto forse diplomaticamente non è la mossa migliore. Sembra invece che l'ipotesi adesso più accreditata possa essere quella di inserire, di includere l'Egitto in una specie di blacklist delle località turistiche, no? Sul sito della Farnesina, se si va a vedere, ci sono dei luoghi, delle nazioni dove è sconsigliato andare. Potrebbe essere questa la mossa giusta, secondo lei, Nuri? Ma sono mosse possibili in futuro. Certo, oggi come oggi richiamare o addirittura ritirare l'ambasciatore mi pare una mossa spettacolare quanto intempestiva. Vorrebbe dire chiudere da parte italiana ogni possibilità di collaborazione. Le altre ipotesi sul terreno, dalla blacklist fino al congelamento di accordi, sono valutazioni politiche che possono essere condivise, che potranno essere necessarie. Certo è che se i buoni rapporti che ci sono tra i due paesi non consentono di migliorare la situazione dei diritti umani complessivamente, neanche di ottenere la verità su un caso specifico, allora forse questi buoni rapporti devono mutare. Dopodiché quello che Amnesty International pensa sia necessario è una internazionalizzazione del profilo giudiziario. C'è uno strumento che è il Comitato delle Nazioni Unite contro la tortura, che può essere coinvolto, può svolgere un suo accertamento indipendente. Ci sono gli accordi tra Unione Europea, suoi stati membri ed Egitto, accordi di ammissione che possono essere rivisti. Certo è che non si può andare avanti all'infinito con versioni irricevibili che l'Italia rimanda indietro aspettando la prossima che poi verrà rimandata indietro. Questo ping pong non può andare avanti all'infinito. Tra l'altro c'è un ascoltatore che dice: la mamma di Giulio deve mostrare le foto, anche se c'era una prima intenzione, poi hanno preferito i genitori, no? Tenerle riservate, anche per una questione forse di rispetto nei confronti di Giulio. Beh, questa è una decisione che riguarda i genitori. Qualunque decisione prenderanno, io credo non vada giudicata. Certo. Io credo, se posso dire, non c'è neanche bisogno di ulteriori immagini, perché le descrizioni ricavate dall'autopsia italiana, quantomeno, e quelle parziali ricevute dall'Egitto, ci dicono che c'è stata una tortura selvaggia nei confronti di Giulio. E se poi questa immagine potesse servire a motivare ancora di più l'opinione pubblica italiana nel chiedere verità e giustizia, bene, io credo che aggiungerà ulteriore dolore a un dolore già intenso che prova la famiglia. Senta, l'Egitto oggi, questo è l'aggiornamento, che l'Egitto vuole creare un pool di procure, la Procura Generale Egiziana, questo l'ha annunciato, di aver creato una squadra di inchiesta per coordinare le procure coinvolte nelle indagini sull'uccisione di Giulio. Vedremo se mai possa essere, non lo so, la volta buona. Mi pare, per chiudere, Riccardo Nuri, che lei abbia fatto la proposta anche di coinvolgere il calcio italiano nella sensibilizzazione sul caso di Giulio? Sì, l'idea che è nata da noi, da Antigone, dal Comitato Italiano Libertà e Diritti Civili è il 23-24 di aprile, cioè nel turno di campionato prossimo al giorno 25 aprile, che poi in Italia ha tanti altri importanti significati, ma da quest'anno diventa anche il giorno in cui 3 mesi prima Giulio scomparve. E l'idea è quella di far scendere le squadre in campo con lo striscione in cui si chiede verità per Giulio, di farlo anche sugli spalti. Devo dire che la Lega di Serie B subito ieri ha detto di sì, probabilmente la Serie A dirà di sì, ma la notizia più bella di oggi è che la Serie A di pallavolo femminile già lo farà nel turno del 3 aprile, cioè di domenica prossima. Bello intanto questo. Grazie Riccardo Nuri, ricordo portavoce di Amnesty International Italia. Grazie, grazie, buon lavoro. Buonasera. Grazie. Viabilità. Scegli Pantera col TH, scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Ve le ricordo adesso brevemente le notizie, intanto continuo i vostri messaggi sul perché l'Europa è così impopolare e deludente, come ha detto oggi lo stesso ministro Padoan, ministro dell'economia. Poi potrete, una volta finita Effetto Notte, anche votare sul sito di Radio 24, ma intanto i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte e gli sms al 349-238-6666. Per esempio, dice Giovanni, scrive: sono studente di giurisprudenza alla Statale di Milano, l'Europa è impopolare perché non ha dato ai propri cittadini un'identità tramite una costituzione. I cittadini europei formalmente esistono, ma praticamente gli unici a sentirsi veramente cittadini europei sono gli studenti Erasmus, come me, dice Luciano. Non è che c'è solo una diffusa ignoranza e genericità sull'Europa, sicuramente comunica male con i cittadini europei e in questo ci sguazzano gli anti-europei parlando di burocrazia e sprechi che poi nessuno approfondisce. Quello che è certo è che l'Italia senza certi vincoli sarebbe già fallita, così come altri paesi corrotti e scialacquatori, così scrive Luciano. Intanto vi ricordo che le notizie principali sono queste: il governo Sarraj, il governo libico voluto dall'ONU, è arrivato a Tripoli, però c'è alta tensione nel paese, ne parleremo tra pochissimo. Sul caso Regeni ne abbiamo appena parlato col portavoce italiano di Amnesty International. In Egitto, questa è la notizia che arriva dall'Egitto, si è creato un pool di procure per le indagini. Intanto Renzi incalza: i magistrati italiani devono avere accesso a tutte le carte. Il caso dei Marò, l'Italia all'AIA, al tribunale dell'AIA, che deve decidere se è il caso, appunto, se è giusto far tornare o no Girone in Italia. Questa è la richiesta del nostro paese. L'India intanto reputa inammissibile questa richiesta. La decisione comunque si avrà in un mese. Aggressioni con l'acido, Alexander Butcher condannato a 23 anni, c'era qui Effetto Notte il suo avvocato, così come l'avvocato del ragazzo sfregiato Stefano Savi, che in aula ha detto: se l'è cercata, spero che non esca mai più. Parliamo ora della Libia invece con Alberto Negri, inviato speciale del Sole 24 Ore. Ciao Alberto. Buonasera a tutti voi. A me sembra che le notizie di oggi rispecchino il caos totale che c'è nel paese, perché si è saputo che il premier designato al-Sarraj, sostenuto dall'ONU, è arrivato con il consiglio presidenziale libico del governo di riconciliazione nazionale attraverso via mare. È stato detto dall'inviato dell'ONU Köbler: è urgente un pacifico e ordinato passaggio dei poteri. Gentiloni ha detto, il nostro ministro degli esteri: è un passo avanti per la stabilizzazione, soddisfazione internazionale. Tuttavia, ho visto, queste sono le agenzie man mano che aggiornano, che la vicenda, che alcuni gruppi armati avrebbero sparato dei colpi in aria con le antiaeree montate sui pick-up per impedire alcuni sostenitori del governo di unità nazionale di radunarsi nel centro di Tripoli, e lo stesso primo ministro attuale di Tripoli ha minacciato questi usurpatori, cioè Sarraj, invocando le milizie e il loro intervento. Cosa sta succedendo? Beh, siamo di fronte al caos, no? Ecco. Innanzitutto questo governo è arrivato dal mare, da questo mare libico partono ogni giorno centinaia di migranti, e allo stesso tempo è arrivato questo governo che, insomma, è qualche cosa di paradossale, forse di surreale, no? Sì, è vero, l'immagine è un po' questa. È un po' di profughi. Tra l'altro si è insediato, si è rifugiato in una base navale, perché arrivare a Tripoli naturalmente per questo governo è assolutamente pericoloso, perché le notizie di cronaca ci dicono questo, no? Ci sono coloro che lo sostengono, coloro che lo osteggiano, ma che cosa sta succedendo veramente? La realtà è che in corso una sorta di negoziato su questo governo libico. Cioè, qual è il negoziato, la trattativa sotterranea di questa vicenda? È che da una parte ci sono gli islamisti di Alba Libica che sono contrari a questo governo, ma lo sono fino a un certo punto, perché vogliono capire che cosa possono guadagnare da questo governo sostenuto dalle Nazioni Unite e dalla comunità internazionale. Possono guadagnare, per esempio, che so, le riserve della Banca Centrale, gli introiti del petrolio e magari anche una legittimazione internazionale se accettassero un intervento esterno che dovesse in qualche modo colpire il califfato, l'ISIS. Ebbene, e questi spari e queste contraddizioni sottolineano che si sta pensando se conviene o meno accettare questo governo libico. Questa è la sostanza della cosa. Alberto, ti dico quest'ultima cosa. Leggevo che Sarraj, appunto questo primo ministro sostenuto dall'ONU, ha detto: cercheremo di salvaguardare i principi dell'accordo politico sulla Libia, tra cui in particolare l'attaccamento alla Sharia in quanto fonte di ogni legislazione e tutto quello che è contrario alla legge islamica sarà nullo. Quindi, diciamo, che tipo di governo verrebbe fuori in questo modo? Ma signori, queste cose sono state già dette, Roberta, anche dopo l'abbattimento di Gheddafi nel 2011, quando si insediò il governo, il Consiglio nazionale a Bengasi, no? Ci fu questa dichiarazione in cui si disse che la Sharia, cioè la legge islamica, era la legge fondamentale dello Stato, che peraltro legge fondamentale dello Stato in gran parte dei paesi arabi e musulmani. Questo non stupisce, queste sono dichiarazioni, come dire, di prammatica. La sostanza delle cose è questa, che se si insedia un governo a Tripoli, anche se in questo modo così contrastato, è chiaro che quelli di Tobruk che stanno in Cirenaica vengono emarginati, no? Sì. E allora questi islamisti di Alba Libica che hanno in mano la situazione a Tripoli stanno valutando quanto gli conviene o meno accettare questo governo della comunità internazionale. Chiarissimo Alberto Negri, grazie Alberto. Grazie a voi, ciao Roberto, buona serata. Ciao Alberto. Ancora molti dei vostri messaggi, però credo che non ci sia più tempo adesso di leggerli. 20 secondi mi dice Paolo, e allora vediamo un po' sulla pagina Facebook di Effetto Notte se riesco tra i molti. Simone, perché ha tradito l'Europa le attese dei cittadini, non è un'istituzione democratica ma tecnocratica con prevalente egemonia tedesca. Potete continuare a votare sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte sia sul sito di Radio 24, radio24.it. A dopo.